30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Gli accordi raggiunti a Durban in Sudafrica pongono le fondamenta per la comunità globale per affrontare i cambiamenti climatici. A dirlo il comitato intergovernativo IPCC di scienziati ONU a proposito dell'esito della 17ª conferenza mondiale sui cambiamenti. Gli scienziati chiedono ora di agire rapidamente per ridurre le emissioni e per evitare l'aumento delle temperature terrestri. Cari ascoltatori, buonasera da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento del sabato. Dunque, Durban, ambiente, ma questa sera vorrei andare oltre, nel senso che ogni volta che parliamo di cambiamenti climatici e di queste grandi assise internazionali, vi ricordate, da Copenaghen al Brasile, al Sudafrica, oggi insomma c'è sempre un esito uguale. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda di chi lo guarda, l'esito di queste conferenze sono più o meno deludenti. Esiste però un livello che in fondo unisce queste grandi incontri, che è il lavoro degli specialisti che lavorano sulle certificazioni, sugli standard e che procedono indipendentemente magari dalla delusione che possiamo avere da mancati annunci importanti da parte dei grandi politici di turno. Insomma, di tutto questo parliamo stasera con un esperto, con un collega anche, ma che è davvero uno specialista di queste tematiche, che se ne occupa da anni. Daniele Pernigotti, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti. Allora, io Daniele Pernigotti potrei dire appunto giornalista, senz'altro, consulente ambientale, ma anche coordinatore di gruppi di lavoro sul gas serra, lavora da anni sui temi della certificazione. Noi abbiamo imparato in fondo a conoscere questo tema di certificazione ambientale, quella etica e sociale delle banche e così via. Vorrei chiederle subito, esiste una relazione tra queste grandi conferenze e diciamo la trasformazione degli standard di certificazione ambientale nella vita quotidiana per i prodotti che consumiamo, insomma per quel grande tema del carbon footprint che poi determina la quantità di emissioni e di gas serra che mettiamo nell'ambiente? Beh, sicuramente dal punto di vista politico, ovviamente il negoziato pone le basi di un approccio top down, quindi delle grandi scelte che andranno a guidare la politica appunto nei prossimi anni, ma in realtà quello che già sanno tutti i tecnici che lavorano in questo settore è che noi avremo un mondo completamente diverso nei prossimi anni, no? Nel 2050 dovremo aver tagliato le emissioni dell'80% e questo è possibile solo se ci sarà una rivoluzione. E per arrivare a questo c'è bisogno di una serie di standard tecnici che già stanno preparando il percorso verso la riduzione delle emissioni. E quindi sicuramente c'è un collegamento, diciamo che il mondo tecnico si muove al di fuori di quelle che sono le lentezze e le scelte politiche, perché vede già qual è la direzione di lungo periodo. Insomma, la direzione di lungo periodo è condivisa, in qualche modo avanza quasi di forza propria, indipendentemente dalle scelte politiche. È ovvio che le scelte politiche sono fondamentali laddove poi determina anche la velocità del processo. Esatto. Infatti il problema della politica è sostanzialmente quello dei tempi, no? Perché anche se guardiamo Durban, vediamo il passo avanti che è stato fatto nel mantenere Kyoto, nell'aprire un nuovo tavolo negoziale in cui ci sarà gli Stati Uniti e la Cina che dovranno prendersi del loro impegno entro il 2020, però si ragiona al 2020, quindi è una tempistica che non colliva molto bene con quella che è la richiesta degli scienziati. Come si diceva all'inizio, la scienza dice che bisogna muoversi urgentemente, cioè si parla di picco delle emissioni a 2015-2018, bisogna invertire la rotta. Quindi se la politica avanza con una certa lentezza, anche se sta comunque avanzando, dall'altra parte il substrato, le spinte dal basso, il mercato, le scelte delle autorità locali spesso dal basso muovono molto di più. Ecco, a proposito di Kyoto, visto che l'ha citato, Kyoto è sempre stato un po' la parola magica, il graal di tutte queste vicende ambientali. Lei dice che c'è stata un'accettazione, nello stesso tempo però il Canada se n'è tirato fuori. Come dobbiamo interpretare questo tipo di scelte? Beh, insomma, in Canada Stephen Harper viene dall'Alberta. L'Alberta da sola fa circa il 40%, se non ricordo male, delle emissioni del Canada, e derivano principalmente dalle sabbie bituminose. Quindi è ovviamente una spinta di lobby petrolifera che non stupisce nessuno in Canada, insomma lo sanno tutti che è così. E da quando Stephen Harper è andato alla guida del Canada ha subito negato Kyoto. Non a caso invece che tagliare del 6% l'hanno aumentato del 35%. Vado adesso a memoria un po' con i numeri, ma ci sbaglio di poco. E il punto è che in realtà Kyoto, come ha detto benissimo secondo me Connie Hedegaard, in Europa Kyoto vogliamo ricordare Connie Hedegaard, che peraltro è stata la padrona di casa di COP15, se non sbaglio, in Danimarca. Esatto. E che è rappresentante europea per il tema ambiente. Per il tema del cambiamento climatico, esattamente. Cambiamento climatico, prego. E lei appunto ci ha ricordato che per noi in questo momento in Europa il protocollo di Kyoto non è un qualcosa d'esterno, è un qualcosa che da 14 anni è entrato nella legislazione europea, quindi per noi Kyoto è dentro la nostra legge. Quindi sicuramente il fatto che il Canada se ne sia uscito è una parte del problema, però nell'aver mantenuto il Kyoto oltre 2012, che era la prima scadenza, ha garantito la creazione di un nuovo tavolo mondiale in cui a questo punto tutti gli attori, anche gli Stati Uniti, che sappiamo tutti essere fuori da Kyoto, dovranno essere portati a avere dei tagli delle emissioni vincolanti. Insomma, coinvolti indipendentemente da Kyoto in senso stretto, ma in un percorso che comunque si è radicato anche nella cultura sociale. Nel libro Carbon Footprint, che lei ha da poco pubblicato e che nel sottotitolo dice proprio calcolare comunità e comunicare l'impatto dei prodotti sul clima, nelle prime righe scrive che il numero di aziende interessate a calcolare la propria carbon footprint è in continua crescita. Allora, carbon footprint, quindi l'impronta di carbonio, che cos'è e perché le aziende sono interessate oggi? Allora, in sostanza è un numero che descrive appunto l'impatto sul clima di un prodotto, calcolando le emissioni legate a quel prodotto dalla culla alla tomba, si dice, cioè dall'estrazione delle materie prime alla preparazione delle materie prime, alla produzione del prodotto, all'uso e allo smaltimento, quindi tutto il ciclo di vita di un prodotto, si fa il conto complessivo e si dice che questo determinato prodotto emette tot CO2. E questa è la sua impronta di carbonio. Esatto, questa è la sua impronta di carbonio. E, dopodiché le aziende chiaramente fanno questo per due ragioni. Una ragione interna, che consente di capire dove stanno, quali sono le fasi più critiche delle emissioni, perché questo non è soltanto un discorso etico rispetto a tale delle emissioni, ma è anche un discorso economico. Ed energetico, suppongo. Esatto. Se la mia impronta è più piccola, a parità di risultato, vuol dire che ho migliorato il mio standard di produzione. Bravissima, in effetti quello che dicono nei gruppi di lavoro ISO, la parola che più si usa è rischio climatico, perché bisogna capire che dove c'è una CO2, un'emissione di CO2 più alta, c'è un consumo energetico più alto e quindi un costo più alto. Ora con il petrolio che è stabilizzato sui $100 a barile, capiamo tutti che ridurre i livelli di emissione vuol dire fare efficienza energetica, quindi efficienza anche di produzione dei beni. Dall'altra parte c'è il rapporto con il consumatore. Il consumatore dovrà essere, e lo è già in molti paesi, lo ricordavamo appunto nel libro, che in Giappone su un sondaggio fatto nella fiera Eco Product di Tokyo nel 2009, più del 70% dei giapponesi si diceva disposto a comprare prodotti con il marchio Carbon Footprint. Quindi da una parte c'è un fatto produttivo, economico, dall'altro un elemento culturale. Effettivamente già questa settimana mi viene in mente, tra le tante immagini che ho visto sulla stampa, un Matt Damon che dice sulla copertina di un giornale italiano "Io vivo verde". Matt Damon, quindi un attore famoso, che veicola un messaggio che, indipendentemente dalla sua professione, dal suo ruolo, è quella sensibilità ambientale che comunque si fa via via più diffusa. 30 minuti in cronaca. L'impronta del carbonio, in che modo cambia la nostra vita, magari inconsapevolmente, i mercati internazionali, la cultura dunque dei consumi. Questa sera ne parliamo con Daniele Pernigotti, che vi segnalo il libro appena pubblicato, Carbon Footprint, quindi calcolare e comunicare l'impatto dei prodotti sul clima, un libro che si apre sull'economia e che racconta alcuni casi emblematici. Abbiamo citato il Giappone, che diceva per negozi ha fatto una scelta già nel 2008. Che cosa è accaduto e quali conseguenze sta avendo? Sì, nel 2008 praticamente il governo giapponese ha deciso che voleva diventare una società a basso contenuto di carbonio. Dopo praticamente un mese, quindi nel luglio del 2008 immediatamente, ha fatto un programma con degli obiettivi nazionali per medio e lungo termine per raggiungere questo obiettivo e si è lanciato anche nella definizione di questo schema per la carbon footprint di prodotto. Quindi è stato uno dei, come dire, dei driver. Un'apripista, esatto. E parallelamente cose simili sono state fatte in Inghilterra, se comunque Thailandia, Corea, la Francia addirittura aveva una legge, stava facendo, che era la Grenelle 1, che obbligava tutti i prodotti di grande vendita ad avere questa etichetta, che poi ha semplicemente modificato in progetto pilota, perché tecnicamente era troppo difficile in così poco tempo mettere in piedi questo schema. Quindi sostanzialmente c'è un grandissimo movimento a livello internazionale, proprio di mercato internazionale, sulla carbon footprint dei prodotti. Ecco, a proposito di impronta di carbonio, so che ci sono tutta una serie di casi anche abbastanza interessanti su come l'impronta di carbonio poi determini degli spostamenti, dei flussi commerciali e appunto dei percorsi che le merci seguono in un mercato ovviamente globalizzato. Perché praticamente le aziende riescono a capire, come dicevamo anche prima, dove stanno i maggiori volumi di emissione. Allora, ad esempio, Tesco, che è grande catena di distribuzione inglese, ha visto che i fiori che acquistava dal mercato del Kenya avevano la maggior parte dell'impatto legato al trasporto aereo. E quindi hanno deciso da un giorno all'altro di dimezzare il mercato dei fiori, e quindi capiamo che conseguenze questo può avere. Ma non solo, c'è un'altra cosa interessante: Walkers, che fa le patatine in sacchetto, è una società inglese, e ha visto che la maggior parte dell'impatto derivava dal trasporto della materia prima, cioè delle patate che venivano usate per fare le patatine, e ha scelto di usare soltanto produttori inglesi, quindi una spinta al mercato locale. Allora, capiamo in questo modo che come la carbon footprint possa realmente spingere, essere strumento di mercato che spinga in determinata direzione. Ecco, un grande misuratore, un'impronta dunque del carbonio legata a ogni singolo prodotto. In che modo questo incrocia il percorso delle certificazioni e appunto si proietta sulla ISO 14.067, che ancora non è applicata, ma insomma a cui si tende? Allora, la 14.067 sarà pubblicata entro fine dell'anno prossimo e sarà la norma che creerà un unico riferimento internazionale su queste cose. Oggi esiste già uno standard inglese, uno internazionale un po' meno diffuso. Quando uscirà lo standard ISO, la regola sarà comune per tutto il mondo. E quindi capiamo la grande attenzione che c'è su tutto questo. Insomma, è molto tempo che non si vedeva una partecipazione così larga nello sviluppo di uno standard ISO di natura ambientale, con grandi anche spinte politiche. Per dirne una curiosità forse, il ministro degli esteri indiano ha fatto un reclamo ufficiale al ministro degli esteri egiziano perché l'Egitto ha votato a favore del passaggio di norma, perché l'India non vuole questa norma perché ha paura che diventi una barriera non doganale. Ora, capiamo che se su un settore tecnico c'è un'attenzione così grande della politica, vuol dire che è veramente uno strumento di grande attenzione nel mercato. Ecco, e nello stesso tempo che anche laddove la politica magari non si manifesta, e qui ritorno al discorso delle chiusure di questi grandi vertici in cui si aspetta l'uomo politico importante, il presidente degli Stati Uniti, che dichiari la svolta, però nello stesso tempo poi la realtà della trasformazione viene probabilmente più definita dai tecnici, ovviamente dei governi, che però lavorano su queste norme. Chi contribuisce a definire questi standard che a partire dal prossimo anno potranno appunto avere queste grandi implicazioni? I tavoli di lavoro delle norme sono dei tavoli aperti. Ad esempio, il tavolo dell'Uni, che è quello italiano, vede la partecipazione di aziende, o associazioni ambientaliste, enti pubblici del ministero, e quindi c'è la massima partecipazione dei soggetti che hanno interesse, si chiamano appunto parti interessate. Non a caso uno dei grandi attori nel tavolo internazionale è l'associazione dei consumatori tedesca, tanto per far capire quanto ci sia, come dire, un'ampia rappresentanza. E quindi la forza di queste norme è proprio che riescono ad essere lo specchio di quello che è la realtà sociale e la realtà economica di riferimento. tavoli distribuiti, immagino, in tutto il mondo, che poi devono convergere attraverso, anzi, devono convergere in un testo unico. In che modo si bilanciano i pesi, le capacità tecniche tra paesi sviluppati, tra le grandi potenze, e invece quelli che, l'abbiamo detto tante volte, spesso sono i primi pagatori netti del cambiamento climatico? Mi riferisco ai paesi africani piuttosto che a quelli del Pacifico e così via. Allora, lo sviluppo della norma funziona come una sorta di ping pong: si lancia la palla sui singoli tavoli nazionali, che sono 130 più o meno i paesi partecipanti. Ogni paese nel suo tavolo, che racchiude tutte le parti interessate, produce i commenti e le rilancia nel tavolo internazionale centrale, e poi riparte questa partita di ping pong nel rilanciare, appunto, da una parte all'altra i commenti. La partecipazione dei paesi di sviluppo è molto importante. Nel caso specifico della carbon footprint di prodotto, un progetto svedese legato promosso dal SIDA e dal SIS, che sono due grandi organizzazioni svedesi, ha visto la partecipazione di paesi nordafricani, centroafricani e medio orientali, proprio per garantire una grande partecipazione già in fase di sviluppo della norma. Siamo verso la conclusione. Leggo tra i molti spunti del suo lavoro: 5.700 prodotti in 19 paesi hanno ottenuto l'etichetta di Carbon Trust, ma anche, questi sono uno dei tanti dati, ma anche il 72% dei cittadini europei è favorevole all'introduzione di un'etichetta obbligatoria sul contenuto di CO2 dei prodotti. Ecco, a che punto siamo? Questo era uno studio del 2009. A che punto siamo su questo percorso, e in che modo questo, diciamo, favorisce anche o sottolinea la trasformazione anche culturale che evidentemente è in corso in Europa? Beh, intanto sicuramente ci stupirà forse vedere questo numero così alto, e questo deve farci riflettere sul livello di consapevolezza che abbiamo ancora a livello italiano in termini di cambiamenti climatici. Purtroppo, sia in termini di informazione e anche in termini politici, e qua io sottolineo sempre una cosa: non guardiamo destra o sinistra, perché è un problema trasversale, è un problema che deve andare oltre lo schieramento politico al cambiamento climatico. Però oggettivamente siamo un passo un po' indietro rispetto a quella che è la media europea. L'attenzione che c'è negli altri paesi su questa cosa è veramente molto molto alta. E il fatto che la Francia fosse ad un punto da fare una legge vincolante su questo tema, o il fatto che in Inghilterra il Carbon Trust ormai è una cosa che conoscono tutti, ci fa capire quanta strada dobbiamo fare per allinearci anche su questi temi. Grazie al nostro ospite di questa sera, lo ricordo, Daniele Pernigotti. Carbon Footprint, dunque calcolare e comunicare l'impatto dei prodotti sul clima, il suo ultimo lavoro su Edizione Ambiente. Pernigotti ha lavorato anche a dei testi, dei manuali invece dedicati ai bambini, che sono bambini e ragazzi, che sono evidentemente il bersaglio privilegiato per una vera e propria trasformazione culturale. Grazie anche a Paolo Corleone in regia questa sera. Da parte mia non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana. 30 minuti in cronaca torna settimana prossima alle 19:30. A presto.